24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. 5 giugno 2013. Sentenza di primo grado sul caso Stefano Cucchi. In nome del popolo italiano, la terza corte d'assise del Tribunale di Roma dichiara Fierro Aldo, Corbi Stefania, Bruno Flaminia, De Marchis Preite Luigi, Di Carlo Silvia colpevoli del reato di cui al capo E della rubrica. Pena sospesa per tutti gli imputati. 31 ottobre 2014, sentenza di secondo grado sul caso Stefano Cucchi. In nome del popolo italiano, in riforma della sentenza emessa dalla terza corte di assise di Roma, in data 5 giugno 2013, assolve Fierro, Corbi, Bruno, De Marchis, Preide, Di Carlo perché il fatto non sussiste dai reati loro ascritti. Assolve Caponetti dal capo C perché il fatto non costituisce reato e dalle residue imputazioni perché il fatto non sussiste. Conferma nel resto ripugnata sentenza, l'udienza è tolta. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, buongiorno. L'aveva messa nel conto una soluzione del genere? Certo che l'avevo messa nel conto, il nostro avvocato ci aveva avvisati. Lei ieri ha incontrato il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, che si è impegnato a rivedere tutti gli atti sin dall'inizio. È sufficiente per lei? Guardi, è sufficiente, sicuramente questo è stato una giornata importante, un momento significativo. Certo che comunque fiducia e speranza sono due vaghi ricordi. Ma che cosa si aspetta? Che cosa si aspetta da una decisione come quella di Pignatone? Ma guardi, mi aspetto quello che è giusto che sia, e cioè che i responsabili della morte di mio fratello siano assicurati alla giustizia. Noi abbiamo due sentenze di assoluzione per insufficienza di prove, questo è chiaramente il fallimento della Procura di Roma, che è sotto gli occhi di tutti. Senta, quello che ci aspettiamo dal procuratore capo è che adesso si faccia qualcosa per fare in modo che vengano trovati e condannati i responsabili. Certo. Di quella cosa. Senta, ma quali sono le reali possibilità per riaprire le indagini? Ah, guardi, io non sono un avvocato, anche se devo dire che in questi 5 anni lo sono quasi diventato, certo. Malgrado e ho imparato a... No, ma mettiamola così allora, quali perizie, quali altre prove potreste produrre? Ecco. Considerando il fatto che alla base di tutto questo ci sono perizie e consulenze assurde, secondo me la cosa più importante e il primo passaggio sarebbe proprio quello di andare a rivedere queste consulenze, magari provare a prendere in considerazione quella del professor Fineschi. Ecco, senta cosa ha detto il suo legale Fabio Anselmo. Io, se mi è consentito, all'esito di questa sentenza posso solo dire che il clima in cui vengono fatti questi processi, ma non quello di oggi, sto parlando del clima in cui vengono svolte le indagini, vengono escusi i testimoni, è un clima che assomiglia molto, per la mia percezione, poi mi sbaglierò, a un processo di mafia, assomiglia molto. È d'accordo lei? Assolutamente sì, tant'è vero che io moralmente ritengo responsabili per la morte di mio fratello ciascuna di queste persone, perché ciascuna di loro avrebbe potuto interrompere quella catena che poi l'ha portata alla morte. Senta. Sentiamo che Stefano è morto principalmente di giustizia, è morto principalmente perché in quel tribunale dove era in udienza per direttissima ed era appena stato testato, è stato per quasi un'ora davanti agli occhi di un giudice e un pubblico ministero che dichiarano di non averlo guardato in faccia e dichiarano di non aver visto quei segni che invece per esempio la segretaria d'udienza ha visto, ma dice che in fondo per loro è normale che un arrestato si presenti in quelle condizioni in udienza. Per me non è normale per niente, come non è normale che mio fratello sia stato quel giorno mandato in carcere come albanese senza fissa dimora. Sulla base di un verbale redatto dai carabinieri del tutto sbagliato, probabilmente di un copia e incolla. Questa è la nostra giustizia, una giustizia fatta col ciclostile. Senta, dottoressa Cucchi, secondo Magistratura Democratica l'epilogo momentaneo del processo Cucchi è una sconfitta per lo Stato, ma anche per le forze dell'ordine. Questo Magistratura Democratica, le speranze allora crescono. Sì, guardi, io credo sì che in questa vicenda hanno perso tutti fuorché la famiglia Cucchi e il loro avvocato. Il fallimento della Procura di Roma. Sicuramente ci arrivano in questo momento segnali importanti, di figure note e così come delle persone normali. Sul mio profilo pubblico, della mia pagina Facebook, si contano qualcosa come 3 milioni di visitatori sul mio ultimo post. Questo vuol dire che vuol dire qualcosa di importante. Il sindacato di polizia penitenziaria però l'ha querelata affermando che lei istiga all'odio e al sospetto nei confronti dell'intera categoria dei soggetti operanti nell'ambito della sicurezza. Cosa risponde? Che io dico la verità, se poi questa verità a qualcuno non piace io non posso farci nulla. Certamente continuerò a dirla, se poi mi querelano io sarei anche contenta di andare a processo, così magari finalmente ci sarà un processo nel quale anche io avrò voce come imputato. Ma quante Italie ci sono nel processo Cucchi? Ne stanno emergendo tante, diverse fra loro? Sì, sì, tante realtà e tanti modi di vedere e pensare diversi. Ma quello che prevale su tutti è il fatto che noi abbiamo vinto perché tutti hanno capito come è morto mio fratello. Senta, e ora mi auguro che la giustizia sia in grado di ammettere il proprio fallimento. Ecco, le faccio un'ultima domanda. Lei ha detto: mi devono uccidere per fermarmi, ma qual è il pericolo più grande? Teme la prescrizione in realtà? Temo la prescrizione perché in realtà con questi capi di imputazione tanto abbiamo lottato per farli cambiare, per far tornare i pubblici ministeri sui loro passi, ma così non è stato e la prescrizione è davvero molto vicina, quindi 2 anni e mezzo dobbiamo ancora arrivare in Cassazione. Quindi ucciderla sarebbe la prescrizione sostanzialmente? Sì, probabilmente anche questo. Ma devono uccidermi per fermarmi vuol dire che io non mi fermerò mai, perché il dolore più grande l'ho già provato, loro possono minacciarmi. No, per questo dico la prescrizione, con la sua, con l'essere definitiva potrebbe essere appunto equiparata al fatto che è finita. Così? Ma in realtà no, non esattamente, perché noi andremo avanti comunque, noi andremo avanti anche in Europa. Io adesso farò causa al Ministero di Giustizia, perché in fondo mio fratello è entrato nelle maglie dello Stato sano e sulle proprie gambe, ci è stato restituito morto in quelle condizioni terribili che tutti avete visto e qualcuno deve farsene carico. Mario, secondo te come finisce questa storia? Ma è una storia incredibile, scivolosissima, per mille motivi. C'è una sentenza di un organo dello Stato che dice, no, che nulla è successo. Ora però, insomma, il nulla è successo mi pare francamente arduo, sì, da sostenere. È già capitato più volte, esatto, quindi è la punta di un iceberg, che è il risultato di quello che è il vero problema della macchina Italia, che è quello di una giustizia che spesso si trasforma in una macchinazione ideologica che produce morti, produce ingiustizie, perché accanto a chi non esce vivo da una caserma c'è anche chi resta dimenticato in una cella, e sono storie che partono da lontano ed è difficile che si possano concludere. Ho notato il comunicato di Magistratura Democratica, dovrebbe fare l'esame di coscienza innanzitutto Magistratura Democratica. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Tu paghi, egli paga, noi paghiamo, voi pagate e si riscuotono. Pietà, pietà. Ma che pietà? Pietà. Noi funzionari del fisco siamo inflessibili. Tasse, tasse, bellissime adorabili tasse. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Catasso non se ne pagano, caccio caccio. La D'Agostino ha dichiarato che quando i tributi e i balzelli sono troppo gravosi, non è peccato di non pagarli. Lei ha paura delle tasse? In 100 svolgiamo il lavoro di 1000 persone, quindi è umano che siamo un po' nervosi. È umano che siamo un po' nervosi? È umano. Adesso il suo caso contribuisce ad aumentare questo nervosismo. Contribuisce? Contribuisce. E allora, se contribuisce, è un contribuente. E se è un contribuente, deve pagare le tasse per banco. Con la stabilità riduciamo 18 miliardi di euro le tasse, cosa che in tutti questi anni hanno sempre detto tutti, peccato non l'abbia mai fatto nessuno. Ecco, Renzi ha detto, l'avete sentito, con questa legge di stabilità si tagliano 18,7 miliardi di euro di tasse. In realtà il taglio netto delle tasse è di 13,7 miliardi, questo perché da una parte il governo ha tagliato effettivamente 18,7 miliardi, dall'altra però ha previsto 4,6 miliardi di nuove tasse che provengono dalle rendite finanziarie e dalle slot machine. Onorevole Francesco Boccia, Presidente della Commissione Bilancio, è così? Sì, è così. E a queste aggiungerei le clausole di salvaguardia, che spero non scattino, che riguardano l'aumento potenziale dell'IVA se il taglio della spesa prevista non verrà fatto. Ecco, ieri la Banca d'Italia ha anche detto che il TFR in busta paga, una delle azioni di Renzi, può essere soltanto temporaneo. Allora cosa significa? Significa che si mette a rischio l'intero sistema previdenziale, perché come è noto, ma questo molti di noi l'avevano detto anche nel partito, dal pagamento del TFR per le aziende superiori ai 50 dipendenti si utilizzano i flussi di cassa per pagare le pensioni. E quindi può essere una cosa solo una volta, una tantum, com'è il discorso? Banca Italia chiede che non sia strutturale, che non sia permanente. Vedremo ora che tipo di dibattito si farà in Parlamento con il governo. Ecco, a proposito del dibattito, in Commissione Bilancio alla Camera voi avete passato al setaccio la legge di stabilità, è il vostro lavoro, e avete dichiarato incompatibili con la stabilità, mi sembra, una ventina di misure. Quali le più clamorose? Ma certamente gli LSU, sicuramente la RAI, certamente molti interventi microsettoriali, ma tutto questo l'abbiamo fatto per difendere il perimetro di politica economica della legge di stabilità. Una legge di stabilità snella, che può diventare un mostro se si ammette tutto l'ammissibile. Cioè è diventata una legge di stabilità come le solite, con tutte le prebende per le piccole iniziative? No, potrebbe diventarlo se non avessimo stralciato quegli interventi microsettoriali o ordinamentali. Ogni deputato avrebbe avuto la possibilità di fare emendamenti simili e saremmo arrivati alle migliaia di emendamenti che normalmente fanno la storia delle leggi finanziarie. In questo modo sono tutti sullo stesso livello, governo e Parlamento, e si discuterà solo della politica economica che il governo propone al Parlamento. Ecco, ma l'attenzione quando si è arrivati sulla RAI è salita molto, così? Beh, c'erano nervosismi. Ma perché? Cosa prevedeva? No, si dava al Presidente del Consiglio la possibilità di, con un decreto, di vendere le partecipate e gli immobili RAI. Ma gli immobili era una questione marginale, le partecipate di fatto, se vendute tutte, modificano il sistema radiotelevisivo italiano. Ma guardi, io non entro nel merito perché... Beh, voi le avete stralciate, no? Stralciate perché portavano zero alle casse del paese. Noi stiamo discutendo la legge di stabilità, la legge di stabilità è la legge di politica economica del paese. Se la relazione tecnica del MEF mi dice che le entrate per questa operazione RAI sono pari a zero, capisce che non c'entra nulla con la legge di stabilità. Ecco, onorevole Boccia, il testo adesso torna in aula, è una sconfitta per Renzi? No, assolutamente no, assolutamente no. E... dice un no che sembra un sì. No, non è una sconfitta per Renzi. Io penso che il governo debba semplicemente difendere la propria idea di politica economica. In questa manovra c'è la riduzione dell'IRAP, gli 80 euro, il TFR, la decontribuzione, la riduzione dei contributi per chi assume. Sono queste le misure importanti a difendere. Le altre cose ci riportano al passato e io penso che Renzi debba ringraziare il Parlamento, che diventa trasparente, e chi difende il perimetro di politica economica. Senta, onorevole Boccia, l'imposta di bollo è un prelievo dello 0,2% del valore di tutte le attività finanziarie e di ogni singolo contribuente. Ecco, non è una patrimoniale bella e buona, neanche tanto nascosta? È un'imposta insopportabile perché tratta i risparmiatori tutti nello stesso modo. I risparmiatori non sono tutti uguali, come è noto. Sì. Li tratta nello stesso modo, però li tratta. Quindi è una patrimoniale nascosta? No, non nascosta, chiara. È una patrimonialina, certo. Preferirei che fossero tassate le transazioni finanziarie, soprattutto quelle del trading online, che in Italia sono gratis. Mi farebbe piacere la tassazione sulle multinazionali del web, ma si preferisce tassare il risparmio. E quindi c'è una patrimoniale dentro questa legge di però stabilità. Però questa, se mi consente, figlia... nasce con il governo Monti e continua fino ad oggi. Vabbè, non è che questo sia solo per la storia di questi ultimi 24 anni. Senta, la nostra garanzia debito pubblico è il risparmio delle famiglie italiane, che secondo Banca Italia nel 2012 era di 3.670 miliardi di euro. Adesso questa finanziaria attinge solo dal risparmio, ma sembra giusto? No, mi sembra sbagliato. Mi auguro che il Parlamento... E fa due, di cose che non vanno tanto bene. Mi auguro che il Parlamento metta le mani su questi aspetti fiscali che non sono affatto convincenti. Sì, ma anche l'aumento del prelievo fiscale sui fondi pensioni c'è, e quindi si vogliono rottamare anche i pensionati? No, infatti io penso che il Parlamento, posso anticipare che il Parlamento la tassazione sui fondi pensione la ridurrà sicuramente, la farà tornare alle origini, poi vediamo, alla fine decide la maggioranza, io posso dare qualche consiglio, posso dire che io la penso come lei, se la sua domanda è fatta per avere come risposta io voglio avere una risposta per capire se è la terza cosa che lei boccia di questa impostazione della legge di stabilità, se ho capito bene. Io guardi, penso che la legge di stabilità sia coraggiosa ma con alcune ombre e piuttosto serie. Certo sono serie. Se vuole le aggiungo un'altra. Me la dica. La sottrazione dei fondi al sud, sono stati sottratti 4 miliardi da fondi europei che dovevano andare alle regioni del mezzogiorno per lo sviluppo e per le imprese, per stimolare investimenti privati e per l'occupazione, vengono utilizzati per la decontribuzione in tutte le regioni d'Italia, significa che se si assume un lavoratore a Milano lo ha pagato la Campania, la Puglia con i fondi europei, e questo penso non sia giusto. E fa 4. Senta, Giuliano Amato nel 92 aveva prelevato, mi sembra, 70.000 miliardi dai depositi bancari in una notte. Ci stiamo avvicinando di nuovo? Spero proprio di no. Ah, non un no sicuro. Speriamo. No, se lo chiede a me, la mia risposta è no. Però mi auguro. Lei c'ha un osservatorio molto attento, vede passare carte e proposte, quindi. Sì, mi ero permesso di dire che forse il PIL avremmo dovuto calcolarlo tra lo 0,4 e lo 0,5 per evitare poi manovre correttive. E infatti è andata così, no? Mi pare che sia, lei aveva detto, non lo 0,6, 0,4, 0,5, una vittoria di Pirro, però un po' triste. Sì, ieri Istat ha detto che 0,5, sì, è davvero. Spero che non si dica che una vittoria di Boccia che equivale a una vittoria di Pirro. Non so che farmene del fatto che oggi mi dicono avevi ragione. Sta di fatto che noi stiamo approvando una legge di stabilità con 0,6 di crescita e Istat ieri ci dice che siamo allo 0,5. E quindi bisogna trovare degli altri soldi. Se mi permette di parafrasare Renzi, l'anno scorso ci diceva giustamente che quando la crescita è 0, qualcosa è sempre 0. Io ribadisco, sono d'accordo con Renzi, quando è 0, qualcosa è sempre 0, a maggior ragione ha senso impegnarsi sulle misure strutturali. Senta, ma scusi, dopo tutto quello che ha detto, io non ho capito se lei la voterà o no sta legge di stabilità. Ma certo che la voto, sono uomo di partito, farò di tutto per cambiarla in meglio, per aggiustarla. È difficile stare nel partito allora, Come? È difficile stare nel partito se 5 cose su 5 non le vanno. No, ce ne sono altre 10 che vanno, le 5 che non vanno le aggiusteremo. Lei dice che la vota la aggiusterete, quindi si ricomincia. La votate, però come fate ad attuarla se ci sono 429 decreti pendenti ancora? E 189 di questi decreti addirittura sono, di questi decreti attuativi, sono già scaduti. E allora? Perché evidentemente ci si è molto concentrati sui decreti ereditati dai governi precedenti e poco sui propri decreti. E bisogna darsi una accelerata, una svegliata, e anziché parlare molto io penso che si debba lavorare tanto. Perché parla troppo Renzi? No, non so Renzi, penso che parla tutto, parla il governo. Solo lui. No, tutto il governo, il governo parla tanto e parlare non fa mai male, però se il lavoro equivalesse, diciamo, fosse correlato alle parole, forse. Onorevole Boccia, lei parla con calma, il suo tono è calmo, ma mi sembra che dica delle cose che sono delle bombe atomiche sostanzialmente. No, guardi, io voglio solo aiutare Renzi e il governo e ad evitare errori che poi diventano complicati da correggere. Quello sul PIL, quello sul TFR, sulla tassazione, e quello più in generale e dei modelli redistributivi è sotto gli occhi di tutti. Vanno cambiati, quelle cose vanno cambiate. Lo salviamo se redistribuiamo e se diamo. Vabbè, e quindi quelle cose, dato che questo è il momento del re de rationem, si stringe sulla legge, queste cose vanno cambiate. Renzi agli scissionisti ha detto facciano pure, non mi interessa. Lei da che parte sta? guardi, io penso che dal PD dovrebbero andarsene quelli che negano i principi e valori del partito, non quelli che tentano di cambiare il paese. E quindi ce ne sarebbero quelli che devono andarsene? No, ne vede tanti. Io non me ne andrò mai perché il partito è casa mia. Temo che il Partito Democratico non sia casa di chi vuole cambiare il paese. Prevede una scissione, insomma. Sì o no? Dica sì o no. Ma sì, se ne vanno quelli che non credono nel PD. Io penso che in questo momento non creda nel PD chi... Ci sono, lei ne conosce qualcuno che non crede nel PD, sì. Intanto guardi, ora stiamo imbarcando un sacco di gente che arriva da paesi diversi e da partiti diversi. Se vi posso permettere, guardi, vale per me come dovrebbe valere... per Renzi, come dovrebbe valere per qualsiasi iscritto al Partito Democratico. Onorevole Boccia, si vota in primavera? Mi fa dire solo una cosa, che non c'è incarico istituzionale, non c'è poltrona che valga un principio rinnegato, che se si rinnegano i principi è meglio andarsene a casa. Ecco, e lei pensa che si voti in primavera? Io penso di sì. Mario, non sono ipocrita, guarda. Mi sembra una cosa buongiorno, importante. Buongiorno Boccia, sono Secchi. Buongiorno. Ma una domanda secca, ma perché un lavoratore dovrebbe farsi versare anticipatamente il TFR che poi gli viene tassato più di quanto sarà alla fine della sua carriera lavorativa? Cioè, qual è la ragione? Che è disperato e ha bisogno perché di soldi. Disperato, io spero che questo non accada, spero che la tassazione sia gestione separata, quindi uguale quella attuale, ed è un errore. Viene ucciso due volte. Infatti, dobbiamo evitare che questo accada. Ma guardi, se chiedi a me, insomma, io il TFR... Sì, ma mi chiedo, ma perché non lo correggono? È talmente evidente. Ma guardi, la legislatura è appena entrata in Parlamento, vedrai che sarà corretto. Pietrangelo. Pietrangelo, buongiorno, la vorrei portare al bar con questo ragionamento. Lei ha spiegato bene la devastazione economica finanziaria che stiamo affrontando. Le chiedo una cosa, ma il 63% di esportazioni in meno verso la Russia non potrebbe dirlo a Matteo Renzi di togliere queste stupide e ridicole sanzioni? Già ha fatto dei danni con la web DAX e lei lo sa spiegare bene. Dobbiamo aggiungere pure questo per impoverire gli imprenditori italiani? Guardi, come sfonda una porta aperta, io sono stato assolutamente contrario. Farà una battaglia contro per togliere le sanzioni? Sono contro le sanzioni sulla Russia. Guardi, io sono come molti italiani, anche per formazione culturalmente filo americano, ma penso che siano molti anni, ormai sono tanti anni, che purtroppo portano il nostro paese a non avere più interessi economici convergenti con gli Stati Uniti. Ecco, ma allora prima di fare le elezioni in primavera, cerchiamo di togliere queste tasse sull'importazione con la Russia. No, ma con la Russia sono insopportabili e noi stiamo mettendo a rischio intere filiere produttive in molti territori. Poi non lo dica a me che vengo da Bari e per noi i rapporti commerciali con la Russia sono... Va bene. San Nicola e Cirillica. Oltre San Nicola. Andrete in piazza. Grazie onorevole. Grazie. Buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mix 24. Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Ed ogni mobile ricorda questa stanza senza culla, i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore. E questa a chi la dedichi, Pietrangelo? Non la dedico, no, nel senso che... Ora ti dico una cosa, non lo so se ci crederete o meno, ma è successo questo. Stamattina in metropolitana non si sentiva lo sferragliare dei vagoni, non si udiva neppure il bip delle porte quando si aprono. Tutti se ne stavano appesi ai corrimano o seduti, avendo in sottofondo questa canzone. E proprio in questa versione, quella di Musica Nuda, e solo dopo tre fermate da Cornelia è stato chiaro il perché di quella malia. Un uomo e una donna, apparentemente sconosciuti, distanti, separati, eppure intimamente legati da uno sguardo, risultarono agli occhi di tutti devastatamente innamorati. E questa musica è perfetta. C'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Insomma, mio amore, mio dolce, beati loro. Ah, io voglio le pastiglie che prende Pietro. Sì, beati loro, guarda. Ne voglio anche io, nessuna pastiglia. Tabacco, pastiglie. No, te lo dico, è semplicemente l'abbonamento all'ATAC. Ma fa questo effetto, me lo faccio subito. Invece di prendere i taxi, non abbiamo più quattrini. Non abbiamo più quattrini. Esatto. Vabbè, vediamo squattrinati. Com'è che mancano i quattrini nella realtà. Vai, le bolle. Internazionale comunista. Questo è Jimi Hendrix. Che fa l'internazionale. Alzati in piedi quando parli di lui. Vabbè, insomma, obamazzate? Cosa succede oggi alle elezioni interne? Siamo arrivati. I sondaggi dicono che i repubblicani potrebbero controllare il Senato e quindi aumentare anche il loro vantaggio alla Camera. Insomma, al secondo mandato, di fatto, ragazzi, prendiamoci chiaro. È sfumato il sogno obamiano, adesso i numeri poi lo diranno, eccetera, però era un presidente su cui molti avevano riposto grandi speranze, me compreso, devo dire, pensavo che in quel momento, soprattutto nel secondo mandato, fosse l'unica opzione possibile. Però, insomma, è riuscito a fare il change promesso? Giovanni, tu che ne pensi? Mi sembra assolutamente di no. Pietrangelo? Io dico che lui è come Gorbaciov, è quello che chiuderà l'impero. Questa può essere un'ipotesi, diciamo, anche plausibile secondo i cicli storici. Di certo ha sbagliato la riforma della sanità, nei tempi, nei modi, insomma, un mezzo disastro. Però almeno l'ha provata. Sì, l'ha provata, però sai, provare non basta, bisogna anche riuscire, e lui non avrà una seconda chance, perché era alla seconda chance. L'altra cosa è che il paese è molto diviso, tutti i sondaggi danno un'America profondamente divisa, è nelle cose della sua storia, però insomma lui si era presentato anche in un'altra veste, in un'altra maniera. L'altro fattore è la politica estera, che non conta quasi niente nel voto americano in questo momento, e poco conta anche, ha contato in passato e conterà secondo me in futuro, però è un disastro. Se mi chiedi un emergente tra i repubblicani, Rand Paul. E poi vediamo che cosa succede durante il voto, faremo le nostre valutazioni. Vuoi andare avanti? Andiamo avanti. Vabbè. E mo che so fatto? Patente e libretto assicurazione, concilia? Ma che tengo da conciliare? Se stava andando già e già. Lei è in contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale di ZA adibito a traffico locale, si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato tassativamente vietata al traffico, soprattutto dopo le severissime disposizioni pedonali, e contravveniva più riprese agli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11 del codice della strada. Sono 47.500 lire, mi pare. Non mi fa restare. Pago subito. Grande il vigile Alberto Sordi, l'icona italiana. E un settore invece dove le multe, no? Dove Obama ha fatto bene, è quello della punizione, insomma, alle banche che durante la crisi e pre-crisi hanno diciamo così ingannato i risparmiatori e manipolato il mercato. Ci sono finite quasi tutte dentro, le indagini del Dipartimento della Giustizia sono state in questo molto vaste. Multe stramiliardarie. La notizia è che JP Morgan, che già era finita sotto il sotto la lente della giustizia americana, aveva pagato una multa record, è di nuovo sotto inchiesta. Pensa, Giovanni, che le cause legali costeranno alla banca 6 miliardi di dollari, stimato. Qua era previsto un lo facciamo. 6 miliardi, mamma mia. Salamino. Salamini sovietici. E i soviet arrivano anche qui. Sabato ci sarà questa adunata dove prenderanno parte spagnoli, russi, greci, francesi, naturalmente anche italiani, per la costituzione della nuova internazionale vieppiù radicata nella rivoluzione bolscevica del 1917. Il titolo è Viva la rivoluzione sovietica. E Marco Rizzo, che è, diciamo, il padrone di casa, ha spiegato che quella del comunismo sovietico è un'idea nuova, a differenza invece del capitalismo che affonda le sue radici, spiega, nel mercantilismo, nella rivoluzione industriale. Insomma, le cose sono nuove, nuove, nuove. Però io vorrei dire, certo, io immagino questa adunata, immagino anche la carica romantica, immagino anche la mobilitazione, i messaggi, Giovanni, io credo ci saranno di saluto, gli indirizzi di saluto, sicuramente la lista Tsitsipras, cioè, con i Tsipras, suoi due, sicuro. Come si dice? No, beh, dipende dove la sono. In inglese, la faccio l'anglicizia. Dipende Cyprus. Dove sono Cyprus. Comunque sicuramente Spinelli e Maltese faranno sentire la loro vicinanza con le masse del proletariato, manderanno anche dei contributi. Io dico a voi che siete, certo, due attenti osservatori, tutto sto sforzo di fare la adunata dei soviet proprio in Italia, perché? Forse perché giustamente hanno vinto le elezioni? Ma chi? I comunisti? E certo, hanno avuto il 41%. Matteo Renzi, che c'entra? Come Renzi, che c'entra? Perché è comunista. Certo, dai, che è comunista. Ma è uno scout, cosa c'entra? Ma no, fa finta di essere scout. In realtà lui, quando aveva il fazzolettone da scout, rosso, stava in barca. Sì, non no, è rosso. Era un giovane Berlusconi pioniere. Ce l'aveva il era un giovane rosso, pioniere. È un giovane primoviere. Pionierio. Come si dice? Pioniere. In inglese? In inglese? Pioneer. Ah, lo stereo, te lo ricordi? Siamo vecchi. Comunque, a proposito di antiquariato, io voglio aggiornare il saluto ai soviet riuniti a Roma con questo meraviglioso brano della tradizione rivisitato in chiave punk. Wow. Quota rosa oggi, Sara? Oggi pensavo una cosa, ma quanto si fa desiderare questa legge elettorale? I sogni sono desideri. Nel giro di un anno si è detto: l'accordo sulla legge elettorale è possibile. L'accordo sulla legge elettorale è vicino. L'accordo sulla legge elettorale sta per essere raggiunto. L'accordo sulla legge elettorale? Anche stasera. L'accordo sulla legge elettorale? Anche domattina. L'accordo sulla legge elettorale è a un passo. L'accordo sulla legge elettorale? In due ore. Mai vista tanta coerenza. Il sogno realtà. Prima della pubblicità, due rapidissimi sms. I capitali scudati tassati al 5%, il TFR al 27%, che amarezza, scrive Enrico. La tassazione sui fondi pensione è il vero assassino dei lavoratori, soprattutto i più giovani. Sono una cosa, perché ho fatto una mandracata, sì. Ho trasformato Proietti in Alberto Sordi, ovviamente era Proietti. Era Proietti, sorry. Certo. Mix 24 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666. Raccomando di firmare gli sms. Il canzoniere. Maledetta questa buia tana di sassi, dove anche il dolce raggio del cielo filtra sporco. Una prigione di libri mangiati dai tarli e coperti di polvere, di carte ammuffite, di vasi e di ampolle, di strumenti inutili. Questo è il tuo mondo, Faust? Ho dato l'aiuto, eh? Beh, sì, è 800 24 00 24, 349 238 66. Mario, l'ultima bolla? Sì. Guida guidare Drive. E, tu sai che noi guardiamo sempre insomma cosa succede nell'industria dell'automobile. Certo. Allora leggevo una cosa molto interessante. C'è una macchinina della Chrysler che è un minivan, si chiama Town & Country, che è, tu la vedi, è brutta. Mm. Non è una bella macchina da vedere, eccetera. Però è perfetta per il cliente di una certa età. Cioè quello sopra i 50 che alla fine controlla il 70% del reddito negli Stati Uniti, aggiungo che le percentuali sono così anche in Italia di fatto e in Europa e non solo. Sai come si chiama nel marketing questa cosa? Come si chiama? La Silver Generation, capelli d'argento, generazione inedita, sì, è molto interessante anche questo. Quindi digitalizzazione da una parte dell'industria automobilistica e sempre più attenzione alle classi di clienti che hanno il denaro e sono quelle che sono più avanti con l'età in questo momento. Quindi. Salamino, oggi è il 4 novembre, anniversario della vittoria. Ogni generazione, scrive oggi Aldo Cazzullo sul Corriere, ha la sua guerra. Vorrei dare la parola adesso al compagno Peppone. No. Direte che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore che minacciava i sacri confini. Peppone. Era Peppone, doveva fare un discorso piritollo, ma Don Camillo mise in sottofondo la leggenda del Piave e quindi venne fuori il Peppone sincero, quello innamorato della patria che si chiama Italia. Simonetta da Pordenone, Simonetta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, allora hai indovinato il nostro canzoniere? Era anche un po' facile, era oggi facile. Comunque il Faust di Goethe. Giusto. Beh, sì, bravissimo. Questa era proprio facile, gliel'aveva detto. Ma lei lo segue tutti i giorni il canzoniere? Tutti i giorni lo indovina tante volte. E anche ieri era lo stesso, però, scusi. Non ha telefonato. Ma ieri non c'ero, non ascoltavo. Non ci segue sempre. Che cosa faceva invece di sentire Mix 24? Ieri ero forse fuori per un sopralluogo, ma oggi sono in laboratorio e quindi ho la radio accesa. Un laboratorio di cosa? Sono una restauratrice. Di che meraviglia, bellissimo. Bene, molto. Buon lavoro allora. Conosce la Scavezzon? Come? Conosce la Scavezzon? L'ho sentita. Anna Scavezzon. E cosa sta restaurando in questo momento? In questo momento ho uno stendardo processionale, raffigurante una Madonna con un bambino, e io mi sto occupando della parte di tessuto, quindi la cornice esterna. La parte ed è un lavoro che l'appassiona? Molto, molto. Sono molto un po' di parte, però è il lavoro più bello che si possa fare. Ma ovviamente. Che meraviglia. Bene, allora tanti auguri con i suoi restauri. Oggi appunto è il 4 novembre. È il 4 novembre del 66 a Firenze venne travolta da un mare di fango e di acqua. È un momento tragico per la città, ma anche un grande momento di solidarietà proveniente da tutto il mondo. I danni, professore, i danni? I danni sono incalcolabili perché è distrutta tutta la mobilia nelle famiglie, è distrutta specialmente le botteghe dove si ricrea la ricchezza, dunque bisogna rimettere in piedi le botteghe, le botteghe artigiane. Quante botteghe? 5-6 mila, quindi a questa gente bisogna dare subito il filo, subito, in modo che possano domani ricominciare. È qui che rinasce la vita. Io ricordo anzi che quando arrivai lì al